13 e un minuto. GR24, il sole 24 ore. I morti accertati in Giappone, rimane alta l'allerta nucleare. Ripresi gli arrivi a Lampedusa col mare calmo, avvistate 6 barche cariche di immigrati. Congelati altri beni libici in Italia, anche la Russia dice no ai viaggi della famiglia Gheddafi. Crescita inesorabile del debito pubblico italiano, nuovo record a gennaio. Buona giornata dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Paglierini. Iniziamo dalla drammatica situazione che sta vivendo il Giappone con un'ampia pagina. Buongiorno a Cristina Carpinelli. Buongiorno, allora io partirei proprio da chi sta vivendo, da chi sta subendo a 3 giorni dal sisma e dallo tsunami quello che resta. Il problema più grosso in questo momento per le aree più colpite è la mancanza di acqua e cibo, che stanno diventando di ora in ora beni di difficile reperibilità. Comincia a farsi più chiara anche la situazione sul fronte delle vittime. Per ora sono 5.000 i morti accertati, ovviamente sono tutte stime indicative. Sono stati trovati 2.000 corpi nella prefettura di Miyagi, che è una delle più colpite dallo tsunami. I morti però potrebbero essere oltre 10.000, questo lo stiamo dicendo praticamente da ieri, e in qualche modo lo sta confermando la polizia. Ma per capire però qual è la situazione che si sta vivendo nel paese, in Giappone, siamo andati proprio insieme a Stefano Carrer nel nord del Giappone, dove lui è da qualche giorno. Sentite. Allora, mi trovo nel Giappone settentrionale, nella provincia di Miyagi, che è appunto uno degli epicentri della costa colpita dallo tsunami. E vengo da Kesennuma, sono uscito dalla zona costiera, proprio perché ancora i telefonini non funzionano lì, e quindi ciò rende difficili le comunicazioni anche tra le persone già così duramente colpite. E la scena che ho visto oggi è quella di una desolazione totale, cioè una distruzione veramente immensa. 3 giorni dopo lo tsunami tutto resta completamente distrutto e immobile, come in un film, insomma. Le automobili rovesciate in tutti i modi, le barche nelle strade, detriti dappertutto, tutte le case di legno distrutte, quelle in muratura sono un po' salvate, ma anche loro sono... Ecco, questa era la testimonianza di Stefano Carrer. Ci deve essere stato qualche problema tecnico. Quello che racconta Stefano Carrer è di un'area del paese che sta facendo veramente fatica a sopravvivere in questi giorni, perché sta mancando quasi tutto. Ci raccontava Carrer che le persone si stanno arrangiando come possono, anche per recuperare l'acqua, anche per recuperare il cibo. Ci sono lunghe file davanti ai supermercati, i supermercati di fatto non hanno più niente da vendere, quindi è un racconto del giorno dopo la catastrofe, tra l'altro a 3 giorni dal terremoto e con l'incubo di nuove scosse molto forti. Quindi la situazione che si sta vivendo nel paese è sicuramente una situazione di altissima allerta. Di altissima allerta parliamo anche quando affrontiamo il tema nucleare, perché continuano ad arrivarci delle informazioni in questo senso. L'ultima dice che i tecnici della centrale di Fukushima hanno cominciato a pompare acqua sulle barre esposte del reattore numero 2 della centrale numero 1 per cercare di raffreddarle, e gli esperti della TEPCO non escludono la possibilità di una fusione del combustibile. Allora, noi abbiamo qui a fianco Jacopo Giliberto, che è forse una delle persone che meglio può leggere queste informazioni che arrivano, e a te Jacopo chiediamo innanzitutto, quando parliamo di questo, che tipo di rischio stiamo andando a toccare? Ma ci sono due rischi, uno diciamo maggiore e uno minore. Comincio ovviamente dal livello minore, che è quello a cui stiamo assistendo in questi giorni, che è il rilascio controllato delle del famoso vapore radioattivo dall'interno del nocciolo del reattore. Questo vapore viene rilasciato gradualmente in modo da alleggerire la pressione all'interno e ovviamente si disperde in aria e produce una forma di contaminazione, per fortuna leggera e gestibile. Per questo motivo la popolazione viene spostata, per non sottoporre a questa, per quanto leggera ma comunque fastidiosa e sicuramente negativa, esposizione. Il problema è se invece le strutture sono danneggiate e i rilasci avvengono in modo non controllato, non gestibile, e allora in questo caso sarebbe molto più complicata la situazione. Ecco, per quanto tu stai leggendo in questo momento, però non siamo in quest'ultima situazione, cioè quando si parla di fusione delle bare un rischio alto in questo senso? La situazione è molto in divenire, è difficile adesso dare previsioni di che cosa può succedere. Dobbiamo immaginare il reattore come una specie di enorme, dal punto di vista strutturale, batteria dell'automobile. Le barre sono come gli elementi di piombo dentro la batteria. Facendo uscire il vapore e l'acqua, restano scoperte, e in questo caso cominciano a scaldarsi. Si sono scaldate da diversi giorni, sono oltre tra i 1000 e i 1800 gradi. 1800 gradi comincia a fondere il combustibile, l'uranio, si scioglie e c'è il rischio che coli sul fondo di questo grande contenitore blindato, contenitore corazzato. Non dovrebbero esserci problemi per chi sta fuori, ovviamente sono problemi enormi per la società elettrica e per i tecnici che devono gestire questa situazione di grande allarme. Grazie a Jacopo Giliberto. E a Tokyo la Terra è tornata a tremare oggi per una scossa di assestamento più forte delle altre. Era una scossa che era stata comunicata ed era prevedibile, tant'è che in alcune aree del paese si prevedono altre scosse e relativi allerta tsunami, ma questo per fortuna ancora non si sta verificando. Ecco, noi abbiamo contattato... Sì, siamo in collegamento con Andrea Orimoto, che forse alcuni ascoltatori avranno sentito anche nei giorni scorsi, è un italo-giapponese che abita a Tokyo. Buongiorno Andrea, bentornato. Buongiorno a voi. Dunque, tu però, dicevo, abiti a Tokyo, ti abbiamo sentito nei giorni scorsi a Tokyo, ci hai raccontato anche i momenti della scossa, quella più violenta. Tu però oggi ti sei spostato dove e perché? Allora, oggi ci siamo spostati io, mia moglie, la bambina, i due gatti, ci siamo spostati a Fukuoka, che è a Kyushu, a sud del Giappone, una delle quattro isole del Giappone a sud. Ci siamo spostati perché per una serie di motivi. Allora, la questione della centrale nucleare, del problema con la contaminazione radioattiva, qui ovviamente la danno come una cosa normale, non c'è problema, bla bla bla. Mettendo insieme un po' di informazioni, il fatto che per esempio l'ambasciata francese ha ufficialmente invitato... Ecco, sì. Dunque, in effetti Andrea, abbiamo dei problemi. No, volevo intervenire su quanto stava dicendo Andrea, perché è una notizia che ha fatto riflettere molto anche noi. Ieri a metà mattina, mentre si susseguivano le informazioni su eventuali incidenti alle centrali, l'ambasciata francese a Tokyo ha diramato questo comunicato nel quale diceva a tutti i francesi residenti in Giappone di andare via. Ovviamente questo ha allertato moltissimo, deve essere arrivato anche alla comunità italiana. Andrea, sei di nuovo con noi, possiamo capire quale tipo di impatto può aver avuto un messaggio del genere? Ma sì, insomma, diciamo che l'impatto di questa notizia si aggiunge già alla nostra preoccupazione di fondo. Tutto sommato la situazione è poi così tranquilla, bene o male sono state delle esplosioni, va bene, ovviamente la versione ufficiale tende a tranquillizzare la popolazione, eccetera, però insomma dicono tutto ok. Dall'altra parte dicono: ah, mi raccomando, uscite, copritevi bene, non lasciate esposta la pelle, insomma c'è una contraddizione di fondo, e quindi insomma Sì, possiamo intuire qual è la situazione in cui poi ti devi muovere avendo anche una bambina molto piccola. Tra l'altro noi proprio di questo, Andrea, intanto ti ringraziamo per aver partecipato a questa finestra informativa e dicevamo che abbiamo sentito in merito proprio agli italiani residenti in Giappone l'ambasciatore italiano a Tokyo, Vincenzo Petrone, che ci ha rassicurato in questo senso. Sentite. Per i connazionali la buona notizia è che abbiamo terminato praticamente le ricerche e non abbiamo più casi critici, nel senso che ne avevamo due sui 29 che stavano cercando, uno l'abbiamo risolto, era un signore che si era andato a vivere a Potenza anni fa, non ci aveva mai partito, per cui non lo cercavamo lì, ma lui stava a Potenza, e l'altro abbiamo ragione di pensare che abbia abbandonato quella zona parecchi mesi fa e che quindi non sia più in situazione critica. Dunque possiamo dire che la ricerca dei connazionali si è conclusa completamente e felicemente. Ecco ambasciatore, oggi c'è stata un'altra scossa e comunque voi eravate già stati allertati di questo, come si stanno vivendo queste giornate, queste ore? Le devo dire che in realtà la scossa di oggi ci ha e mi ha creato un, posso dire paradossalmente, un certo ottimismo, nel senso che noi sappiamo che nei prossimi giorni ci potrebbe essere una scossa relativamente importante a un centinaio di chilometri a nord di Tokyo. Questo ce lo dice l'Agenzia Nazionale Meteorologica Giapponese sulla base non di un esame tecnico scientifico, ma di serie storiche in base alle quali ci sono dei parametri che provocano certi schemi, e in base a questi schemi ci potrebbe essere quindi un'altra scossa relativamente non lontana da Tokyo. Se noi oggi abbiamo sentito una scossa di livello 6 che si è verificata a 100 km circa, e se ne avremo un'altra a livello 7 a 100 km, beh, devo dire che insomma non ci sarebbe da temere niente di disastroso. Ecco, questo è oggi mi sento di essere un po' più ottimista che nei giorni scorsi, ma soprattutto credo che avevamo scelto il tono giusto nell'avvertire i connazionali, molti dei quali erano molto preoccupati da questa previsione di un nuovo sisma. E questo dunque l'ambasciatore, il tono giusto tenuto dalla diplomazia italiana in Giappone. La situazione comunque è difficile, ve lo stiamo raccontando, e situazione che sta avendo ovviamente ripercussioni anche sui mercati. Allora Deborah Rosciani in diretta con noi ci aggiorni. Sì, buongiorno. Allora questa mattina la borsa giapponese è stata riaperta e le autorità finanziarie hanno voluto proprio dare questo segnale di ritorno alla normalità, anche se per la borsa non è stata una gran giornata, perché il listino dei 225 titoli guida del mercato nipponico ha subito un tracollo del 6%, del tutto atteso. Vedremo se nei prossimi giorni arriverà un recupero. Un po' a rassicurare poi il mercato è arrivata la notizia che la Bank of Japan ha aumentato a 44 miliardi di euro i suoi acquisti di attivi giapponesi, proprio per facilitare gli investimenti e dare questo nuovo segnale di stabilizzazione dei mercati. L'Europa è un po' più tranquilla rispetto a quanto accaduto sul mercato giapponese. Pesante è Francoforte oggi, che perde l'1,22%, e qua stanno colpendo le vendite proprio i titoli del settore assicurativo ed energetico dopo la catastrofe naturale che ha colpito il Giappone. È proprio sotto pressione il settore assicurativo da qualche giorno, perché naturalmente sarà quello che di più dovrà pagare per sopportare le conseguenze del devastante sisma e tsunami giapponese. A Milano stanno volando le banche, Piazza Affari guadagna lo 0,33% e direi che per ora è tutto. Grazie dunque a Deborah Rosciani. Intanto, sempre rimanendo in Giappone, si sta cominciando a muovere la comunità internazionale. Un'intera equipe di esperti, soccorritori statunitensi sono giunti da Los Angeles in California direttamente alla base aerea di Misawa, situata nella regione del nord, quella colpita dallo tsunami. Ancora personale tedesco, svizzero, ungherese, taiwanese, una settantina di paesi si sono già attivati. Al momento la massima urgenza è quella di salvare quanti sono ancora in vita, intrappolati sotto le macerie, se si può sperare ancora. Attrezzati nello specifico a questo scopo sono i 100 specialisti in partenza dalla Francia, le squadre di cani addestrati per la ricerca delle persone si uniscono, 12 tonnellate di materiale specifico per il soccorso in condizioni estreme. E per ora è tutto, direi, Enrico. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato con un'ampia pagina della situazione drammatica in Giappone. Al momento sono 5.000 i morti accertati, questa è una notizia ufficiale, ma sono migliaia ancora i dispersi. Rimane alta, e questa è la notizia di oggi che continuiamo a ripetere da questa mattina, rimane molto alta l'allerta nucleare nel nord del paese. Poi parleremo tra poco della situazione in Libia, anche delle ripercussioni in Italia. Sono ripresi gli arrivi a Lampedusa con il mare calmo. Parleremo anche della crescita inesorabile del debito pubblico italiano, che ha registrato un nuovo record a gennaio. Riprendiamo con una notizia dell'ultima ora. Di poco fa l'antitrust italiano ha deciso di avviare un'istruttoria nei confronti di Poste Italiane per verificare se la società, con i suoi comportamenti, abbia ostacolato a vantaggio della propria controllata Postel la presenza sul mercato dell'azienda Selecta. Quindi l'antitrust indagherà per abuso di posizione dominante. La crisi libica e le ripercussioni sul sud Italia. 6 barche cariche di immigrati sono state avvistate nel canale di Sicilia, dirette verso Lampedusa. A bordo c'è un numero non ancora precisato di clandestini. Questa mattina 64 immigrati sono arrivati a Lampedusa e sono stati trasferiti nel centro d'accoglienza, dove si trovano al momento poco meno di 1.000 persone. E sull'isola è attesa tra poco una conferenza stampa di Marine Le Pen, presidente del Fronte Nazionale, partito di estrema destra francese, che è arrivata appunto a Lampedusa per una visita istituzionale. Sull'isola c'è anche il parlamentare europeo della Lega Nord, Borghezio. A proposito della crisi libica, il presidente russo Medvedev ha annunciato oggi che Gheddafi e la sua famiglia non potranno entrare in Russia e che sarà bandita la possibilità di condurre operazioni finanziarie libiche in territorio russo. Sempre oggi la Banca d'Italia ha disposto l'amministrazione straordinaria per la UBAE, l'istituto controllato a maggioranza dalla Libyan Foreign Bank, nel cui azionariato figurano anche Unicredit e Intesa San Paolo. Sul campo in Libia prosegue la reazione delle forze fedeli a Gheddafi. I combattimenti sono in corso a sud di Bengasi. La TV di Stato libica ha annunciato che se si arrenderanno, i soldati che sono passati con gli insorti libici saranno graziati. Ecco comunque la situazione a Bengasi raccontata dall'inviato del Sole 24 Ore, Roberto Bongiorni. Siamo ancora a Bengasi, al deluso dei giornalisti, dove però quasi tutti i giornalisti di mezzo mondo sono andati via perché ieri ci sono state altre notizie di un'avanzata delle truppe di Gheddafi. A Bengasi c'era un'area naturalmente completamente diversa, non più festeggiamenti, ma la preoccupazione di chi teme che il sogno di una Libia libera possa essere già tramontato. Ieri sera abbiamo avuto anche delle voci che in alcuni quartieri di Tobruk, dove ci sono ormai molti giornalisti che stanno cercando di varcare le frontiere, ci sono state delle manifestazioni poche date, se le persone spaventate avrebbero cambiato bandiera. Ma è tutto ancora molto fluido, confuso, perché questa mattina sembra che le forze dell'opposizione abbiano ingaggiato una dura battaglia e forse hanno ripreso il porto di Brega. Insomma, una situazione molto caotica. In questa confusione c'è solo una certezza: le milizie di Gheddafi stanno facendo sul serio, vogliono guadagnare il più terreno possibile prima che la comunità internazionale prenda un'eventuale decisione su un divieto di volo. E per ora è tutto. Alle 13:22 minuti cambiamo argomento, torniamo in Italia. 35 presunti affiliati all''Ndrangheta in Lombardia sono stati arrestati all'alba, sequestrati anche beni per 2 milioni di euro. Poco fa la conferenza stampa, sentiamo in diretta gli ultimi aggiornamenti e i particolari da Raffaella Calandra. Buongiorno. Abbiamo deciso, portiamo Antonella Maiolo. Gli uomini delle cosche regine a Milano lo dicono esplicitamente in un'intercettazione. Nella nostra zona, leggiamo, le facciamo prendere un sacco di voti. Parla Francesco Piccolo, referente dei flachi sotto al Duomo, e dall'altra parte del telefono c'è Renato Coppola, già candidato di Forza Italia e già direttore delle Poste di Piazza Cordusio. Con il figlio di questo boss già condannato per omicidio, l'ex politico PDL della regione Lombardia si era incontrata 2 volte, a quanto ricostruisce il Rosso. Alla politica il GIP Giuseppe Gennari dedica un intero capitolo della sua ordinanza che ha portato in carcere 35 persone, 700 pagine che raccontano la presenza delle cosche regine e di Africo a Milano, nell'imposizione del pizzo, anche con la violenza in alcuni locali, come sui venditori ambulanti di panini, come Radio 24 aveva rivelato già in un'inchiesta di Storiacce, o ancora nella ricerca dei contatti con la politica per una 'ndrangheta che, scrive il GIP, si presenta come alternativa alle istituzioni. E le riunioni per gli scenari politici sono avvenuti anche negli uffici amministrativi di due ospedali importanti come il Galeazzi e il Niguarda. Nei contatti poi di uno degli arrestati, Paolo Martino, figura anche l'agente dei VIP, Lele Mora, e il suo avvocato Luca Giuliante, coinvolti poi nell'inchiesta che riguarda anche il premier, il cosiddetto Rubygate. Altri dettagli nelle prossime edizioni. Grazie a Raffaella Calandra. Arriva una notizia da Lampedusa, c'è cioè una manifestazione di contestazione all'aeroporto di Lampedusa contro la leader dell'estrema destra francese Marine Le Pen e Mario Borghezio, abbiamo detto poco fa che sono appunto arrivati sull'isola, e una protesta c'è anche davanti alla residenza del premier Silvio Berlusconi ad Arcore, protestano i sindacati di polizia. In diretta Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno. Gli agenti di polizia protestano davanti ad Arcore, sit-in, fischi per Italia, le forze dell'ordine. Il premier Silvio Berlusconi è sceso giù per parlare con i poliziotti, ha promesso che darà gli aumenti e poi è andato via appena ha visto una troupe di anno zero ed è atteso qui a Roma per l'incontro con il presidente della Commissione europea Barroso a Palazzo Chigi. Siamo qui per protestare contro la politica economica e della sicurezza del governo, spiega Giuseppe Tiani, segretario generale del SIAP, e sullo striscione c'è scritto Berlusconi con i dimettiti. Assenti altri sindacati del settore, SALP, UGL, SIULP, questo perché il vice capo della polizia Nicola Izzo ha chiesto venerdì di sospendere la manifestazione in cambio degli aumenti approvati che verranno approvati al prossimo Consiglio dei Ministri, ma alcune sigle hanno deciso lo stesso di manifestare. Franco Maccari, segretario del COISP, spiega che non si fida di nessuno, ha firmato a settembre 2010 un contratto con il governo, ma non è successo nulla, figuriamoci adesso una promessa. E per il momento qui da Roma è tutto, per studio. Adesso parliamo della giustizia. È stato presentato questa mattina a Palazzo Chigi il piano per la digitalizzazione del sistema. Obiettivo del governo: completare la trasformazione in 18 mesi. 466 gli uffici giudiziari coinvolti, 50 milioni di euro le risorse messe a disposizione. Puntiamo a ridurre i tempi del processo e i costi di gestione e funzionamento amministrativo, spiega il ministro della giustizia Alfano. Crediamo dunque di aver realizzato un importantissimo risultato, quello di una grande accelerazione per la giustizia informatizzata, e voglio ribadire che tutto ciò si iscrive in un piano complessivo di efficienza della giustizia che è fatta di leggi ordinarie, di misure organizzative e di leggi costituzionali, queste ultime di cui si sta parlando in questi giorni. Nel 2010 le entrate tributarie al netto delle una tantum hanno fatto registrare una crescita dello 0,3%. La brutta notizia arriva però dal debito pubblico, che cresce ancora e raggiunge un nuovo record a gennaio. Nuovo record per il debito pubblico italiano. Secondo la Banca d'Italia, infatti, lo stock del debito ha sfiorato lo scorso gennaio i 1.880 miliardi a fronte dei 1.843 miliardi registrati a dicembre 2010. Buone notizie arrivano invece per le entrate tributarie. A gennaio gli incassi sono aumentati del 3,2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Ancora migliore il confronto con l'anno scorso se, come fa Banca Italia, si utilizza il metodo della cassa per calcolare le entrate fiscali. In questo caso, infatti, l'aumento è pari addirittura al 6,3%. Guardando a tutto il 2010, le entrate sono rimaste sostanzialmente stabili, che si consideri o meno il contributo delle una tantum. In totale, gli incassi si sono attestati intorno ai 403 miliardi di euro. Claudio Celio, da Radio Cor, per Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ed ora in chiusura parliamo dei 25 anni di presidenza di Berlusconi al Milan. Grande festa ieri sera al Teatro Manzoni di Milano. L'unico assente, che però si sente, è Leonardo, ex comodissimo che guida la panchina dell'Inter. La festa dei 25 anni di Berlusconi al Milan è una lunga galleria di ricordi, di trionfi e facce da campioni che hanno reso grande la squadra rossonera. Ancelotti, Van Basten, Ueassa, Vicevic, Maldini, Baresi e via fino a Gattuso, che si prende una tirata d'orecchi dal presidente. «Che ti è successo col Tottenham?» domanda Berlusconi. «Ho perso la testa, presidente. Anch'io con Bersani ho perso la testa», ammette Berlusconi. Le incertezze del presente, il pareggio col Bari, la squalifica di Ibrahimovic, non oscurano il futuro, almeno per Berlusconi. «A me sembra che sia una squadra che è all'altezza di altre formazioni del Milan. Siamo in testa alla classifica nel campionato italiano, abbiamo sbagliato una partita in Europa e siamo molto addolorati per questo. Credo tuttavia che ci sia la possibilità possibilità per continuare a puntare a dei grandi successi e a dei grandi traguardi. Infine, buone nuove per Allegri. Nonostante la scivolata in Coppa, è ancora ben saldo in panchina. Credo che possa pensarsi per lui un futuro nel Milan coronato da molti successi. Gente Allegri, il cielo aiuta. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le 13:29, questa è Radio 24, è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Enrico Pagliarini. Ringrazio in regia Pietro Lacorte. La prossima edizione di GR24 in onda alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.